Non so scordar l'ultimo giorno in riva al mare. Prendevo il sole seminuda sulla spiaggia dell'amore, lì dove mai conosciuta. Un vento caldo, il tuo respiro sul mio corpo, ed io mi abbandonai smarrita. Mi stringesti e ti permisi di entrare nella mia vita. Nei miei occhi c'è la tua immagine, ed anche se so che ti ho perso, per adesso sai, non mi è possibile unirmi ad un uomo diverso. Finì l'estate, fu la volta dell'addio, e non potemmo restar soli. Dalla voglia dei tuoi sguardi capivo che mi prendevi. Nei miei occhi c'è la tua immagine, per adesso.